al posto suo, che cosa non farei, amore mio? Io ti darei quello che lui non ti può dare, se ci fossi io al posto suo. Ci fossi tu matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio, sei proprio tu. Sono io, sei proprio tu. Sono proprio io che sto cadendo tra le braccia mie. Non far così.